Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. A proposito, mentre eri fuori c'è stato il finimondo al saloon. Gli uomini del maggiore hanno pestato due agricoltori e credo che d'ora in poi quei due potranno mangiare solo budino perché i denti li hanno lasciati sul pavimento. Thank you. Sono veramente gli ultimissimi giorni per riuscire a tornare dai loro concerti di Bologna e Firenze con il disco in mano. Infatti quelli saranno concerti gratuiti grazie ad Eclettica, in collaborazione con l'Audio Globe potrete anche tornare a casa con il disco di Siren Ben, il gruppo francese che da un po' di tempo ci stiamo ascoltando qua all'interno di Eclettica. Per la precisione le date sono il 10 di novembre a Villa Serena di Bologna e l'11 di novembre a Ponterotto di Firenze, per cui già ho dato istruzioni su come arrivarci nel caso ve le siate persi. Vi ricordo che c'è sempre a disposizione l'indirizzo giulio@radiorockfm.com. Da qualche parte dovrei avere anche le date dei concerti che vi manderò a vedere gratis. Ramona Cordova, sì, Ramona Cordova sta per arrivare in Italia. Quattro date di cui ho i biglietti gratuiti. Il 12 alla Casa 139 di Milano, il 14 allo Spazio 211 di Torino, il 21 al Bronson di Ravenna e il 22 allo Zoo Caffè di Bologna. Sia per vincere il disco The Sign and Ben, sia per vincere i biglietti di Ramona Cordova, il modo esattamente lo stesso. giulio@radiorockfm.com. Ed ora ritorniamo dalle parti di Lincoln, Nebraska, terra da cui provengono gli Eagles Eagle all'esordio, che già conosciamo bene con un brano che a molti di voi piace, me l'avete fatto sapere scrivendomi, brano dal titolo Your Beauty's a Knife I Turn on My Throat, però quest'oggi non ci spostiamo fino alla traccia numero 6, ci fermiamo alla traccia numero 2, Photograph. Around with me, else. Sulla tavola della cucina c'era una bottiglietta di linimento che suo padre si dava ogni sera, tornando su dalla bottega. Un piatto sporco d'olio e la scodella del sale. Ettore passò a guardare sua madre. Stava a cucinare al gas. Lui le guardò i fianchi sformati, i piedi piatti. Quando si chinava, le sottane si sollevavano dietro mostrando i grossi elastici subito sopra il ginocchio. Questo era l'incipit della Paga del Sabato di Beppe Fenoglio. Sounds of Subterranea, l'etichetta di Kassel, che si trova in Germania, per cui incidono gli svedesi di Göteborg, per la precisione The Carnation, Human Universals, il loro nuovo album dal quale da un po' di tempo a questa parte ci stiamo ascoltando Jesus Saves, ritmi un po' più dense e un po' meno new wave rispetto alle loro precedenti prove. Invece prima ci eravamo ascoltati, oggetto anche di pillola in settimana, un'anticipazione del nuovo di Tom Waits nei negozi dal 20 di novembre, Orphans, Brawlers, Bowlers and Bastards, questo è il titolo dell'album, Long Way Home, e invece il titolo del brano che ci siamo ascoltati. Settimana scorsa vi ho fatto sentire per la prima volta una versione reggae di una canzone, ma che esce da un album che è una versione reggae di un intero album, l'album in cui è contenuta Karma Police dei Radiohead, e ci sono anche tutte le canzoni di quell'album in levare. A rifarle sono gli Easy Star All Stars. Eclettica. Fine della seconda parte.